Yo, it's a crack of shit, the Radio 66. Common man, Paul Pierdis, and the marking, as you know. Tripla X è la station, già dal soundcheck, casse rotte, sono flotte, underground rap in compilation a mezzanotte. Troppe session di vera merda, senza major, flash o combine, una combination che ti fotte. Non alzare troppo il subwoofer, che se passa un altro video bomba ti esplode il computer. Ricable e router nel mix, teste cupe, pupe, in Italia non si sbaglia, la taglia e tripla X non si discute. Skis brother, poche storie, rappresenta per sta roba, botte per chi va a letto alle 8 a mezzanotte non si trova. Matteo che ti rimprovera, oppure modera i termini, pensaci che sentendomi c'è gente che si ricovera. Se non riesci a prendermi arrenditi, prenditi ecstasy, restaci, venditi e la faccenda non si scorderà. Pentiti, poi prenditi, easy funky shit the mentalist, tutto addosso ti ritornerà. Sul beat ti informa, scasso, stile più grassa di una poco in forma, passa la mia riforma, ricorda. Si inverte tutto, torna come se batto cassa, la tipa passa con le gambe aperte più di Michael Jordan, Joe.